bagnare forte, non voglio vedere. Adesso è stato al passo? No. L'ha proprio dal passo. Ah, l'ha proprio dal passo. Ha tutto.